گیر و یه پدر عصبی، عشق هم جنسشون رسون به جنون، دلخون از نگاه من آدار اینو زد دلو به دریا، گفت من انسانم میگذرم من واسه حقم از جانم، مادر عشق نداره که هیچ حد و مرزی، نکن با زندگی دخترت بازی، منم مثل شما بنده همون خدام، هم جنس کردم ولی نمیشه ادعام، پوزخند تلخ روی لب مادر، شب دل دختره نخواست بشه باورش، پدر با اشتیاق حرفاشو خوب داد گو، زیر مشترک تفلکی شد بیهوش، باشو زجه بزن و بکن استغفار، مگه نمیدونی زن یعنی استثمار، واسه تعمید دادن اونو زیر آب جوش، چون نهی از منکر وظیفه رو دوش، چرخیدن تو مطبخ و کتک خوردن، باشه کنجه اونو خونه ی شوهر بردن، شبا تنشو استخ بگیره دسته ی مرد، ولی هنوزم عشق زن و زمزمه میکرد، جلو آینه نشستن و خیره شدن، کاری از پیش نمیبره پس باشو زن، برداشت تلفن و گرفت یه شماره، ترسش این بود نکنه که بر نداره، شنید صداشو یهو دلش لرزید، مغز جا خوش کرده توی گلوش درکی، من میخوام بشم از عشق تو دیوونه، داد میزنم تو همه دنیا بدونه، از باورم هیچ شرمی ندارم، من خوابیدم با مرد و دوست ندارم، ماس کن چشتو ببین من همین جان، چون که زدی بازاری بیان و باله اسمیان، آدم ها با هر عقیده حق زندگی داره، خیلی وقت دیگه تنها به زون پوسیده، چنگ بزن و میدو سای سکای رسیده، زن زندگی تو دست خودت بگیر، واسه هدفت کشته شو اما نه، زن بشتش با چوبه یه دار تو همه، زنی که معشوق زن بشنوین همه، سر صحنه توی تئاتر زندگی، زن یه سیاهی لشگر همیشگی، نه حق داره عشقشو ابراز کنه، نه میتونه سفره دلشو باز کنه، اجتماع واسه اون مثل جهنمه، اشتباه نکن ولی اونه که مریمه، نمیخواد با یه مرد روی تخت بخوابه، اینه میسوزونه شماها رو این عذابه، چرا بگیره تصمیم جای زن مزرکه، چرا خاک وطن خالی از اون. E allora eccoci qui in diretta, salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, di Radio Blackout di Torino, salutiamo le compagne del collettivo femminista Medea che sono collegate con noi, ciao, sappiamo che state rimandando il nostro segnale per questa trasmissione lunga di 3 ore, Donne senza confini né frontiere, una trasmissione in cui ascolteremo molte donne che ci raccontano le loro lotte, diciamo intorno al Mediterraneo ma non solo. Noi del martedì autogestito da femministe e lesbiche insieme ad altre compagne della redazione di Radio Onda Rossa abbiamo pensato di iniziare questo spazio con diciamo un nostro contributo, non sarà propriamente una introduzione né un filo conduttore, perché forse un filo conduttore non è trovabile ma identificabile, ma la nostra idea di contributo e quindi anche forse di filo conduttore è perché la situazione e le lotte delle donne in altre parti del mondo ci riguardano. Vogliamo partire quindi necessariamente da chi siamo noi e qual è il nostro posizionamento come femministe, come lesbiche occidentali, come donne bianche. Il nostro posizionamento significa anche che ci sono differenze di classe fra noi, alcune di noi sono lesbiche, altre sono etero, e però ci interroghiamo appunto a partire da questo, ci interroghiamo su quali sono le alleanze, come possiamo costruire le alleanze con le altre donne e anche il nostro posizionamento, a che responsabilità ci chiama. Però io chiederei innanzitutto di aiutarmi a spiegare insieme che cosa vuol dire posizionamento. Sì, forse una cosa che possiamo dire per cominciare, che per noi è importante, è il fatto che appunto le lotte delle donne che avvengono, si svolgono in altre parti del mondo, ci riguardano. Non semplicemente perché abbiamo in comune il fatto di essere donne, quindi la materialità biologica di un corpo fatto insomma allo stesso modo, ma ci riguardano perché c'è qualcosa di più che ci unisce e perché sappiamo che appunto essere donne non è un fatto naturale, non è quel fatto naturale che ci interessa per costruire le nostre lotte, ma il fatto che invece sappiamo che le donne hanno esperienze diverse in diverse parti del mondo, che non esiste una idea sola della donna, ma esistono esperienze che cambiano a seconda dei contesti storici, geografici, culturali, no? Sì, è come dire, per tornare sulla necessità appunto in questo discorso di esprimere il nostro posizionamento, appunto il nostro posizionamento è quello di donne lesbiche occidentali bianche, e non, come dire, non cambia questa situazione il fatto che noi magari non riconosciamo queste categorie. Cioè è chiaro che definirsi occidentale non è una categoria che noi riconosciamo, ma è perché sappiamo benissimo che è una costruzione politica che peraltro è nata anche molto di recente, no? Il conflitto di civiltà e tutta questa cosa. Ma il fatto che noi non riconosciamo questa quest'idea occidentale non significa comunque che non godiamo del privilegio di stare in questa parte del mondo, perché comunque, come dire, la geopolitica, nella geopolitica il potere ha costruito questa categoria, e quindi ovviamente noi dobbiamo, come dire, prenderci la responsabilità di essere in questo posizionamento. Sì, perché sappiamo anche che insomma questo posizionamento produce delle gerarchie di potere anche tra le donne, appunto da una parte all'altra del Mediterraneo, oppure a seconda delle differenze di classe anche nello stesso paese, no? Quindi per esempio è assurdo, spesso sentiamo parlare delle donne arabe o le donne africane, le donne nere, come se fossero un tutto indistinto. No, le differenze che vogliamo riconoscere non sono così differenze in astratto, ma sono appunto i diversi tipi di oppressione con cui le donne si confrontano rispetto ai differenti tipi di dispositivi di potere, no? E quindi forse quello che ci interessa per costruire delle alleanze è andare a guardare non tanto alle forme di potere che ci opprimono, ma alle strategie di resistenza che portiamo avanti in diversi contesti, perché quello che ci unisce è proprio appunto il posizionamento politico di femministe, non il fatto generico di essere donne. E quindi il femminismo significa anche cose differenti, significa lotte differenti a seconda appunto di quali sono i meccanismi di oppressione culturali delle varie culture che opprimono e segregano o violentano le donne. Anche se dicevamo che poi delle, come dire, delle lunghe linee rosse in comune nelle oppressioni che subiamo esistono, e ne diciamo due su tutte: il capitale e le religioni, che credo si possa dire anche un po' schematicamente. Si può anche entrare invece più nel concreto, per esempio nella presenza delle multinazionali sui territori e delle, come dire, delle guerre che conducono le multinazionali sui territori ai corpi e ai percorsi, alle vite delle donne, delle persone. Allo stesso modo l'altro discorso, forse anche più evidente di per sé, la presenza delle religioni, delle istituzioni religiose, dei poteri e delle normative religiose uniscono, al di là poi di quale sia il Dio sul cui altare sacrificare le donne. E a proposito di multinazionali, questo ci chiama in prima persona, appunto, perché per esempio ci chiama a lottare noi nel nostro territorio, nel senso che una cosa che ci interessa è costruire alleanze con le donne in lotta, costruire una complicità appunto che nasca dalle lotte. Non vogliamo fare un discorso, diciamo, solidaristico, nonostante che solidarietà sia una pratica, un concetto molto bello che ci rivendichiamo come femministe, ma spesso purtroppo ha una istanza o intenzioni assistenzialiste, appunto non è questo, sono alleanze, sono complicità, perché quello che succede a una donna o a delle donne ovunque nel mondo ha delle conseguenze che viviamo anche noi sul nostro corpo, sulla nostra pelle, sulle nostre relazioni con il mondo, con il mondo del lavoro e così via. E fra l'altro, insomma, in questo momento politico, insomma, chiamiamola globalizzazione, chiamiamola come si vuole, a me sembra, insomma, che i poteri importino anche dispositivi di oppressione da un territorio all'altro, per cui si sperimenta la militarizzazione in un territorio che può essere la Palestina o un altro, si riattiva anche se in maniera diversa all'Aquila o in Val di Susa o in Mali, sì. E facevamo prima, parlando fra di noi, anche un riferimento per quanto riguarda i CIE e la detenzione amministrativa. La detenzione amministrativa è qualcosa che viene sperimentata da decenni e decenni in Israele, i cui termini vengono allungati e non hanno oramai più fine, e è la stessa cosa che viene che è stata portata da alcuni anni in Italia con la detenzione nei CIE, no? Anche qui che i cui termini di detenzione vengono sempre prorogati. E sono termini di detenzione che vengono, diciamo, declinati in base a quello che sei, non neanche a quello che fai, a ciò che appunto qual è la tua natura, qual è la tua provenienza, qual è il contesto dove sei cresciuto. E forse poi questo discorso della lotta contro i CIE è un percorso politico che ci spinge pure a interrogarci su perché ci dovrebbero riguardare delle lotte che in realtà apparentemente sembrano non riguardarci direttamente, perché qui appunto siamo tutte persone che hanno i documenti, il passaporto che permette loro di attraversare i confini liberamente, non rischieremo mai di entrare in un CIE, però comunque sappiamo che quel tipo di dispositivo di potere ci riguarda e non possiamo fare a meno di contrastarlo, perché sappiamo che appunto sono dispositivi che si sperimentano su determinati soggetti, ma poi potenzialmente possono limitare la libertà di tutte e di tutti, e comunque non ci interessa fare un ragionamento su dei percorsi di generico antirazzismo che sono stati portati avanti in Italia per molti anni, in cui magari si faceva, ecco, il discorso contro il controllo delle frontiere sembrava appunto un generico antirazzismo basato sul fatto che le discriminazioni sono fatte in base al colore della pelle o alla nazionalità, come se fossero qualcosa di naturale inscritto nei corpi delle persone, quando in realtà queste appunto le forme di razzismo che sperimentiamo in Italia sappiamo benissimo che servono a coprire lo sfruttamento della manodopera immigrata, o per esempio lo sfruttamento delle donne che vengono vittime di tratta, che vengono costrette a prostituirsi. Cioè ci sono tutta una serie di intrecci tra varie forme di potere che si esercitano, che, insomma, di cui dobbiamo tenere conto. Sì, e fra l'altro in questo discorso il genere è anche una cartina a tornasole molto evidente, perché se noi andiamo a vedere appunto quali sono le donne che provengono da altri paesi che non rischiano di finire in un CIE perché ottengono i documenti, sono quelle che possono venire a fare certi lavori, cioè lavori di cura, le badanti essenzialmente, oppure sono mogli che si ricongiungono a mariti che già vivono qua, e quindi le uniche due che riescono a rientrare, no, nel dispositivo previsto dal potere, svolgono ruoli di cura oppure appunto sono mogli, e quindi stanno in un certo posizionamento sociale che richiama al nostro, cioè nel senso che richiama a quelle forme d'oppressione che le donne anche a queste latitudini subiscono da sempre sostanzialmente. E comunque, come dire, questo è molto evidente, forse meno evidente ma ugualmente concreto, il fatto che chiudere delle persone per quello che sono sostanzialmente costruisce la società che viviamo, e poi è quella che viviamo anche noi, anche se non finiamo per finire in quel CIE. Per esempio in questo è molto evidente il discorso del lavoro, no? Se una persona si trova senza permesso, senza documenti in tasca, rischia di finire in un CIE, è costretta per vivere a accettare qualunque forma di sfruttamento lavorativo, e questo ovviamente a catena abbassa come dire la possibilità di sopravvivenza, la soglia della vivibilità e le condizioni di lavoro per loro, ma anche di conseguenza a cascata per noi, no? Sì, nel senso che pensiamo che su una porzione di popolazione in qualche modo si attua realmente quello che poi si attua in questo momento simbolicamente su tutta la popolazione. Un altro esempio che io faccio sempre è quello del contratto collettivo nazionale di lavoro sul lavoro domestico, no, del 2007, che dice che l'orario di lavoro per le badanti e i badanti può essere di 56 ore. Ora noi sappiamo che le 40 ore di lavoro, anche se vorremmo non lavorare, comunque sono frutto delle lotte delle operaie e degli operai che già nell'8 marzo del 1957 le operaie scendevano in piazza per chiedere la riduzione dell'orario di lavoro. Ecco, in qualche modo il sancire che alcuni e alcune possono lavorare 56 ore vuol dire di conseguenza rompere un limite a cui attraverso le lotte siamo arrivate. Un altro tassello, che appunto abbiamo messo in questo discorso è il fatto che attraverso i CIE, ma anche attraverso il carcere, lo Stato mostra in tutta la sua violenza il fatto che detiene il monopolio della violenza, e però nei confronti delle donne lo esercita attraverso, spessissimo attraverso la violenza sessuale. Sappiamo e abbiamo visto, grazie anche alla lotta di alcune donne migranti rinchiuse nei CIE, che hanno avuto la forza, la determinazione, l'autodeterminazione di denunciare i propri aguzzini, che comunque appunto le tenevano soggiogate anche attraverso ricatti sessuali. Sappiamo bene quanto le forze dell'ordine, i militari e tutto quell'apparato repressivo dello Stato comunque tengono le donne, esercitano sulle donne appunto una violenza attraverso lo stupro, attraverso la violenza sessuale. Ci siamo qui. Ci guardiamo nel panico, ma siamo qui. A parte appunto, cioè, questa chiacchierata che stiamo provando a fare a microfoni aperti, diciamo che il nostro sguardo deve essere assolutamente rivolto a quelle che poi sono le esperienze reali di complicità che si creano in alcuni territori, esperienze che si basano in realtà su relazioni reali, che abbandonano anche il concetto di privilegio, perché in realtà si tratta di partire dalle stesse condizioni e provare a portare avanti una lotta autodeterminata insieme, in difesa appunto dall'oppressione quotidiana dello sfruttamento, ma anche in difesa da quella che può essere l'attacco costante delle forze dell'ordine. E diciamo che assolutamente non vogliamo perdere di vista queste esperienze di lotta, che sono seppur piccole, che partono appunto dal quotidiano. Perderle di vista sarebbe, cioè, parlare dall'alto di qualcosa che non ci riguarda in qualche modo. No, ma infatti, diciamo, appunto per fornire spunti di riflessione in questo che poi è uno spazio che, come anche dal titolo, attraversa i confini e cerca appunto di individuare queste possibili alleanze, noi facciamo i conti comunque con una situazione che bene o male ci sta spingendo ai margini, no? Questo discorso che fai tu, no? Di queste esperienze anche di comune liberazione da alcuni dispositivi, vuoi che siano i CIE, vuoi che sia il fatto di non avere una casa, vuoi che sia appunto il difendere un mercato per esempio fatto da venditori ambulanti abusivi. Cioè, sono tantissime le esperienze di questo genere che sicuramente rappresentano anche quello che può essere uno stimolo da riportare nel nostro quotidiano. Vero è che sempre di più appunto il ricatto per alcuni e la spinta verso i margini per chi magari detiene il privilegio di averci un documento in regola europeo qui nei nostri territori, diciamo che ci spinge a trovare delle alleanze reali, e quindi partendo dal discorso della condizione che ognuno e ognuno di noi si vive, si può arrivare ad azzerare quelle differenze che ognuna e ognuno di noi porterà sempre presenti nel confronto e nella crescita della lotta, ma che in sostanza poi si riuniscono in una stessa tensione a sovvertire quello che è ciò che ci schiaccia e ciò che ci sfrutta. Sì, dunque inevitabilmente l'attenzione, diciamo, puntata sulle lotte effettive, e ascolteremo insomma nel corso di queste ore diverse corrispondenze e testimonianze di queste lotte che appunto, tra l'altro, forse possiamo fra poco andare a procedere a chiamare la compagna in Egitto e partire con queste prime telefonate. Che dite? Sì, stacco musicale così ci connettiamo con l'Egitto. will say fight the enemy. If you stand in the way, we'll find our reason to lock up the enemy. If you poison our minds with your dirty business, say we're not the enemy. If we have enough cash, we won't make a fuss, we just fight the enemy. Claim the truth, they will.